prova. Sì, no, 45 metri squadra. Guarda così. 40 a pieno. Ah, bello capire. A Claudio? Sì, Claudio. Come ne più grano. Fatto, adesso ho fatto due passaggi. Maria. Qua siamo, mi sta mettendo la... sveglia, alle 6 e mezza. Per domani. Guarda, la settimana come la vado in sveglia. Via da te. Sì, non mi negare. Dì che stai facendo altro. Io ogni tanto qualche passaggio glielo sto facendo, c'ho anche già. Ho letto i messaggi nella bacchecca. Cosa hai fatto, compriamo? 16 qua. 37. Va bene. Vamo là che vado a mangiare. Sono arrivate le pizze. Ci accentiamo, fatemi bene, buonanotte a tutti. Ah, Dio, ma io non controllo la radio Santiago, per favore. E Santiago, sì, 9:25. La radio è... Boh, prova. Non la sento molto bene la radio. Cazzo, sono 2-3, prova, guarda. La sento compressa. Guarda, così? Così no. Sta gara, va bene. Buonanotte a tutti, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao. Buonanotte. Ora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Beh, già. Facendo male, chi è? Allora, 6:30, ok, impostata, spegniamo il cellulare, e buonanotte, sì. Bene, Luca. Ragazza. Due passaggi ogni tanto li faccio, Il bip sta un po' gracchiando, Sto dicendo, perché sei così assente, tu? Poi, no, non c'è più voglia, no, non attira, tu. Prima l'ho preso la vita, non lo so sentire, ma adesso non... Ho qualcosa che non va, non lo so. Volevo cambiare, fare, poi no, mi sono bloccato, ecco, non... Vediamo un po', dai. Sono lì per lì. Non lo so, vediamo cosa decidere. Sto capendo, cambiare di cosa? Dico, per il momento staccare un po' la spina, dai. Come ho fatto un paio d'anni fa, sono stato assente 10 anni, vabbè, l'ho fatto perché disturbavo, però mi sa che faccio la stessa cosa, smonto tutto e poi si vedrà. Sei lì, ci puoi chiedere perché? È successo qualcosa? No, quando non ti va una cosa, tu, non penso che a te lo stesso capita, se una cosa non ti va, cioè lascia, buco. Sì, ma... Io ragiono in maniera diversa, poi ognuno ha il proprio ragionamento, però mi chiedo in primis cos'è che mi sta facendo lasciare, capito? È possibile anche che mi sia stancato, è tutto un insieme, non lo so neanche io, pensa, però non riesco a... Non so cosa dirti, veramente, va. Ti devo la cavolata, ma comunque, ancora siamo qua. Oppure posso lasciare tutto, però sto così un po' assente, come sono stato in questi giorni. Non so, ci sono tante cose. C'è cose che vedo, magari non ti posso dire. Forse sto dicendo una stronzata, gente magari che non lo so, magari mi sbaglio, mi ti fa la faccia bella la guarda e poi dietro ti pugnala, non ci risento, mi sento così. così, queste persone, io parlo qua, parlo in generale, al computer, nel reale, e poi parlo a Chino. Ma quella è la missa. Non vedo perché devono cambiare, perché non ci devono essere queste persone anche in frequenza. Essendo composto da persone, come tutte le cose, essendo imperfetti, essere imperfetti è normale che si verifichino anche qua. Come era l'onzaglio? Tutto qua. Non c'è niente contro, nessuno ci mancherebbe, io sono amico di tutti, né più né meno. Anzi, mi piace essere amico di tutti. Con rispetto, ovvio. Sia rispetto, rispetto. A me piace il rispetto. Dai, un attimo, volevo controllare una cosettina delle luci di Natale che funzionano tutte le lampadine tranne le verdoline. Sicuramente si è attaccato qualche filo. Riprendi Gianni, ci sei. Restaurante. Sì, aspettate un attimo perché papà sta facendo una cosa. Marcolino! Vabbè, Marcolino, bene, sta a posto, studiando. Ovviamente il babbo sta facendo una cosa grossa in bagno. Pure tu, mamma, e poi sei facendo tu. Cavolo, non agisce lo squelch, la M, è un aggiornamento di scatto, Non è vero che. Cioè, non, è vero che non funziona lo squelch, però puoi utilizzare il refrigerant. Eh? Cosa faccio? Tu adesso ce l'hai al minimo o al massimo, guarda, cioè è il quarto che trovi dall'alto. Cioè il primo dovresti avere il mid gain, dopodiché c'è la potenza, dopodiché cosa c'è sotto? Il ref gain al massimo. Esatto, il ref gain mettilo al minimo. Se stai chiudendo la comunicazione, cioè ti arriva solamente al pari di mettere uno squelch, capito? Ecco, aspetta, va. 3, 1, 2, 3. Parla. Tu non te l'avevi studiato bene il 140. No, se non lo sapevo, vedi. Vabbè. No. Allora non so bene, per favore. Savrusci. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ottimo. Tre segnali però, guarda così. Ora, ora, ora, ora. Un attimo non te lo posso dare, solo Luca. Ma fatto già. Che tafrusci già. Si sa, di no. Sono già il MIP che va in distorsione. Oh, via. Si è fatto la radio già. Ora, guarda. Ora devi abbassare, abbassa. Cioè, rispengo, non ce n'è più, non ci sono più là. 2 watt, vedi, 2-3 watt, va bene. Ciao Arturo. Ma dopo ti devo chiedere una cosa. Ma non sei stato sciacca. Sono un scettici, io c'è mai di cagliura. Metti la portante, attacca e stacca. Guarda, vabbè. Attacca e stacca parlando, con la portante scritta, se no me ne accorgo. Va bene adesso come modulazione? La modulazione adesso sì. Minchia che momento che ci hai messo, raga. Poco sto passando dal microfono. Cava là, va bene. Ah, mi è arrivato quel roadstar, te l'avevo detto. Prova con quello già con Kenwood. Va a vedere. 1, 2, 3. 1, 2, 3, così è staccato e così è attaccato. C'è qualcosa che non va. Ma cosa c'è il strumento attaccato? Cosa c'è? Non ho aumentato niente con K. Momento ciò. Allora ho sbagliato qualcosa. Vuole attaccare lo strumento? Vabbè dai, controllo, a controllare. Già, non vanno attaccato lo strumento. Cazzo raga, un temporale lì dov'è? Su Maria da. No. Quanto? Mi è arrivato quel roadstar, però con più di 2 fasi non mi dà, Più di 2? Sì, non sarà un problema quello, no. Si apre e si fa dare 5 watt. Ho fatto con i cosi, come si dice, con quelle specie di trimmer che hanno il nucleo ferrite, non ne va più di 2. Ahia. Ma 5 watt deve darle almeno, Essere finale? dipende, 50 milliwatt. Che quanto costano voi il finale? Cosa costa? Una cagata costa. Cambio. Finale per finale, cambio. Gianni? Sentite un altro rumore. Sono tu, pure poi da due, fino a temporare. E non lo da fa. Poi via. Ho tolto il caso, ma poi è uscito. Ma ci vediamo, ci mi raggira. Arrivo un compleanno in cantiere. Ma sono uscito un collega qua. Ma se andiamo a bar, siamo le dica che qui c'è un Mirto. Perché mi hanno regalato la bottiglia di Mirto. Noi stavamo un gribada per fare un compleanno. Più di un litro era. Ci ha preso un gusto, sto qua vicino a un belvo. Cazzo non birvi. Vabbè. Dopo andiamo nel compleanno. Abbiamo preso una tabuccia, siamo andati tu al bar, ci hanno bevuto uno, l'ho offerto io. E dopo ha deciso, ha detto, cioè voleva di nuovo che io andassi al bar a prendere altri due. Ho detto, ma scusa, che cosa fare? E me ne compravo una bottiglia, la paghiamo di meno, cioè, ne abbiamo di più. E fa come vuoi, sono andato la nostra bottiglia di Mirto. Caro Claudio, sono arrivato a casa, mamma mia, appunto a due ore. Oggi sta un po' meglio, ieri, mamma mia, tutto uriato. Ma credi, ma è stato macchievole proprio. E poi il bello è che sono arrivato qua da parte, mi ero avuto anche un bicchiere di birra, mi sono aggrappato ancora di più, pensato. Ma la cultura Mirto ti ammazza, non è cosa vera. Mamma mia, quando parli, aio, passaggi brevi, sennò qua dopo ti tassano. Buonasera a tutti quanti, Massimiliano Archimede. 3 gradi e mezzo, preparatevi domani gli sci e le catene. Beh, la prossima volta faccio un passaggio non a Falcone, almeno 2 ore. E ci avrei positivamente, buonasera. Eia, eia. Però dentro, quando parlo, tanto meglio, non entri, io mi avevo lasciato. Oh, passare, 1 e 1. Poi 5. Ma soltanto più di 2 minuti con quell'apparato che e io ce la fu, piano di lui dietro un premo. E poi lo mettiamo a stazionaria. Avanti, chi è che lo sta portando a 9.40? Oh, ero io, stavo controllando le stazionarie, perché quando piove l'antenna si allunga. All'intenna? Allora, ma dico te. Poi con il ghiaccio non ti dico cosa succede quando scende le temperature. L'antenna ti fa una mano di Dio. Oh. Claudio! Oh! Mettiamo via una cosa, posso? Ehi! Ma tu c'hai la gravatta! La gravatta, sì! E anche l'antenna c'ho gravattata! Poi c'è un primo che mi gravatta anche l'uccello! Ehi, ehi! Oh, Gianni, la più brutta! Gravatta! Gianni! Allora, seguite Gianni, sicuramente ha fatto qualche errore. Perché Massimiliano, attaccando lì, io ho l'antenna ad antenna rosmetro. E poi da trasmettitore rosmetro ad antenna lineare, e trasmettitore lineare al baracchino. Mi pare sia così. Non faccio capito niente di quello che hai detto. Vuoi sapere, baracchino, lineare e rosmetro, solitamente si fa. Così controlli anche l'uscita del rosmetro, del lineare. Infatti, inizia dal baracchino e inizia con l'antenna. Baracchino, lineare e rosmetro, esatto. Ok, ma Gianni deve aver sbagliato qualcosa, perché qua sul 440 ho visto che no, segnale non cambiava niente. Ancora. Oh. Se leggermente fuori. Fuori? Fuori il testa, so. Testo fuori, io sono 27.075.00. Sto andando col digitale, quindi cosa devo essere fuori? Controlla tu. 27.077, la verità. 077. Aspetta, ma credo sia io leggermente fuori di qua. Forse sì, ma si vedrà a 0,75 sei tu, sì. Aspetta che accendo lo strumento, te lo dico subito un attimino, che devo mettere il carbone qua e accendere la caldaia un attimo, No, questo non ne ho dubbi, 27,75.00, sia questo che tutti gli altri. Tieni la più a lungo. Ecco, adesso va bene, non so cosa hai toccato, ma adesso va bene. Ho toccato toccato niente, io non ho toccato niente, c'è due Ducato, io non ho toccato niente, ti ho detto. Ho appena acceso e sono fermo. È strano la presa, è strano. Non ti avrei una cosa del genere, cara, ti giuro, lo sai, mi bruci. Sapete che tempo ti avrei una cosa del genere. Ho acceso, ti sentivo, non è un fulmine, è acceso. Diceva la tua che era freddo, ha fatto così. Questo non c'è niente da toccare. Mi scrivo Gianni a vedere. Gianni? Però se schizzi, ha fatto fulmine. Gianni, ci sei? C'è un fulmine qua vicino, qua. Vedo dentro. Ma Massimiliano, nevica secondo te? Oh vabbè, prendete per il cuscino, io sto spegnendo tutto, sto facendo le antenne. Ciao a tutti quelli di per me. Massimiliano, mi senti? Massimiliano. Passa col di polo, là. Passa col di polo. No, io spengo tutto, guardate la mia televisione, cosa di polo. Ciao a tutti quelli di per me. Massimiliano. Massimiliano. Massimiliano, fa due volumi. Aspetta la connessione a me. Accorti, Gemmo. E io sto spegnendo il computer, sto spegnendo tutto, se no casino. Ma già lo sapevo che era tempo brutto, non c'è problema. Vabbè, dai. Ci sentiamo, ciao a tutti, dai, corretti. Massimiliano non risponde, Gianni non risponde. Bravo, prossima, anche io spengo tutto. Ciao, bra, io passo invece in Grand Prix. E in Grand Prix sto bene io. Grand Prix! Dalla corrente dell'alimentatore, l'H8 c'entra la Grand Prix. C'ho la Grand Prix bassa, io a me non mi tocca, l'antenna è sotto, non sotto. Prima di usare un fulmineggia. È fresco tu. Ah, di fulmineggia, Antonio. La bicchierina di fulmineggia. Non credo proprio. Mi tocca fare come Falcone. Sì, sicuro. Oh, a connessione non c'è più, sparita, internet morto. Che persona, è mancata la luce qua vicino, figurati tu. C'è passata la luce qua a casa a me, due secondi nemmeno. La luce c'è qua. La partita di una persona accende. Ma qua si è passato due secondi, infatti ho detto a Claudio, c'è stato un fulmine, mi si è passata la luce, io il fulmine nella verità non l'ho visto, deve essere stato al monte lì vicino, qualcosa del genere, poi si è passata la luce qua. Ragazzo. Allora baracchino, quando ci sono i fulmini, è meglio un'antenna orizzontale che verticale, a meno con l'orizzontale si salvi, con la verticale non credo proprio. Un dipolo ti fai, un bel dipolo, un alluminio come vuoi, in capo, quello che ti pare ti piace, a V, dove è sciatta. Cazzo, io distruggo la ragazzi sul tetto, tu dici che mi porto un dipolo, ma lascia perdere. Io invece mi sono messo la campi dentro mattino, attaccata al muro e non disturba nessuno. Uno in uno stazionale, la verità, ed è perfetta. Sempre che aspetta la grande, la piccola non la metta, non ti preoccupare. C'è un canale a letto piazzata. Ma poi mi vado all'altra, non mi mattina, se mi metto nella strada. La maglia? Eh sì, tu contro la maglia. Se no chi mangia non ti badano. Poi su muro non cade, ma tra loro ti badano. Se ci dica, mi dipende da tu matti. Ma non ho detto matti, ti hanno di meno. Per esempio, un collega mio che avevo fatto un contratto, lui ha preso 900 euro. 900 euro più su 4.000 euro. Sì, vabbè, che c'entra, scusa, non ho capito. Se piove, mica dove tu devi rimanere lì con un imbecille, no, scusami, con il verdurbano, vabbè, tu non lo sei, il verdurbano mi sembra, quindi. Che bocchelli, Hola? Ma che fai, che se piove è un vento, tra l'altro la mattina la vuoi, tu. Rimani lì, ti prendi il caso, rimani lì, aspetti che venga il coso. Il sacco settore, non saranno. Se io prima di dire che stavo lavorando, come ti posso dire, alle 7, alle 6 e mezzo, quello che è, cosa devo fare? Se lei ci vai, se non ci vai, non è che devi rimanere lì, fino alle 10 aspettare che venga qualcuno, no? Lo stai piccando, Non so, quindi c'è questa mia che non lo stai piccando. Faceva un bel pioggia grandi nella verità e cielo bianco, quindi questa è neve. ha fatto il fulmine ogni tanto, ma non è niente. Quanti break di poco fa? Non lo sento più, c'ho qua verme. Anni. Via. Ti sento adesso, dimmi. Via. Ti sento adesso, ecco, dimmi. Ma c'è Marco che sta parlando, non ho capito, scusami, dimmi. Gianni, sale piccato, hai visto? Sì, l'ho già visto, sì. Come stai uscendo adesso, Luca, che ho messo a posto il figlio? Bene. Calma, calma, va. Era una questione di stretta di cosa, di piede, aspetta. Ma sta piovendo e grandinando, niente neve. Tutto a posto, Luca. In testa. Ma senti la grandine. Più che grandi no, è il vischio. Sono qui. quelle che senti si chiamano raganelle. L'effetto dell'elettricità statica che corre sull'antenna si crea quando c'è un temporale in arrivo o si sta scatenando. Bravo. Aspetta un attimo. Oh, oh, oh. Oh. Ora. Oh. Boh, boh. Cosa lo sta facendo? Dipende. Boh, vabbè. E allora, pompo, cosa mi racconti di bello? Non posso senza sentirti. Sì, si perché non sogno, lo sai. Tanto, per questo caso di effetto da canella, si può mettere qua un po' di whisky, qualcosa del genere per scaricare questa elettrostatica? Assolutamente, guarda. È un male di chi usa la radio. Se vai in internet su YouTube ci metti effetto raganella antenna e ne senti e ne vedi tutti i colori. È l'effetto statica, capito? Aspetta che vado a vedere dall'altra parte della strada che sto riprendendo, è tutto bianco, è fuori, è tutto bianco ragazzi. Oh, ma ci sei? Sono qua, anche per compagna, sono qui anche. Non ti sento, malissimo. E cosa vuoi che dica? Dipende da me, no? Dipende dalla pioggia. Dice che è morto tutto bianco. Bu, strano. Qua non abbiamo attivato tutto niente ancora. Oh, scatti, ma a volte si sente veramente la modulazione, a volte è proprio incomprensibile. E cosa vuoi che dica? Con quasi 100 watt, non è che ci abbiamo 100 watt quasi ciò. Adesso sei uscito bene, adesso sì. Così mi chiedo, non lo capito, no? Ma là che stavo dicendo, per il caso della canella che ha detto lui, se non ci voleva una bottiglia di vino, ho detto, invece della notte in modo da scaldarla. Ah, così, allora quando fa questo tempo così dà questo effetto, così è. Cosa ne so, boh. Sta piovendo un bel adesso, la verità. In questo momento adesso sta finendo, meno male. Adesso va bene, ti ascolto bene, scusami, sto un po' pigiando la bocca, ti volevo dire, ma è per questo tempo che dà questo effetto? La pioggia è quella, quando piove parecchio con le antenne fa questo difetto. Ah, basta, perfetto, già va bene. Io poi Gianni Doppio lo sento bassissimo, non so cosa stia combinando, ha fatto qualche modifica. Dimmi Gianni, ma non parlo sta? No, vabbè, hai sceso adesso. Altra dico una cosa, voglio staccare tutto qua, se no ciao miei apparati. Non ti preoccupare, non ti tocca, stavo a te. Chi dovrebbe toccare? Io non lo so, calcolato, ma a te. Così? E tu Berlusconi? Ah, Berlusconi, oh, quello è intoccabile, non ti preoccupare, non l'hanno messo dentro e si è convinto che è l'Apollo Fulmini, oh! C'è un QRM che viene adesso, lo senti? Ehi, adesso è passato il QRM! In questo momento sì, ma proprio fai salito. Ma in realtà, tutto un colpo QRM e poi io ce l'ho a zero, anche tu è così, eh! Adesso non è tanto segnale tuo, è radio 5 a bomba, ma se mi erano avanti, ci sei? Ma sempre per il tempo, è possibile? Per il tempo, Paura, allucinato, no, questa ancora non avevo sperimentato, già va bene. Comunque sei arrivato anche tu, mi devi segnare qua. Ma tu, come puoi mettere l'antenna a buia? Sicuro. No, siccome sto usando il 68, forse è per quello, aspetta un attimo. Che cambia apparato, perché io qua ho tutto regolare. Tutto regolare, adesso provo a mettere il Galaxy e mi dai un po' la risposta, aspetta. Non è questione di Galaxy, no, c'è qua QRM è capito per la pioggia, già. Io qua non ne ho, ecco la verità, non sento il QRM qua, è tutto a posto. La radio come va, Antone? È appena stato, sì. Vabbè, aspetta. E poi da Roma? Se va meglio. Guarda. Gianni, mi compi? Beh, adesso è tutta un'altra cosa, Antonio. Anche la radio è più forte. Vabbè, io stavo... aspetta. Stavo usando il 68 col microfono originale. Adesso sto usando il Galaxy con lo ZG, il microfono da tavolo. Adesso a me come mi senti, Antonio? Tutta un'altra minetta, 9 più 10 qua, è la radio ultima. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma io lo sento bene, fai di nuovo una prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, quale segnale per quanto ti arrivo? Sì, 9 più 10 è Donna Giulia Antonello, sì, più dei pari leggermente sacro. Nell'altro passaggio quant'era? 9 e 10 lo stesso. Ehi, a 7 da parte mia, 9 e 10. Ma te prova di trattinare con questo, vediamo un po', aspetta. Allora, vediamo un po'. Sicuramente va bene, io stavo usando il microfono originale per il 68 e non c'avevo collegato quello da tavolo, già ha fatto la differenza. Dimmi un attimino adesso, sacro sono. Troppo sì, non è la tua modulazione, ma è la perfetta limpida e cristallina. Chiuso così, guarda. Ma guarda ancora se ti è possibile. Guarda, vedere. Adesso va bene, hai passato leggermente di segnale, però va bene. Vabbè, aspetta che ti volterà appena così. Guarda se va bene lo stesso. È tornato come prima di nuovo, 9 più 10, leggermente satura. Ti volterà. E cosa stai manovrando? Cos'è una ciabatta? Sì, stavo mettendo a posto una ciabatta. Quella è la macchina? Cazzo. È regolabile o direttamente dall'apparato lo regoli? Dall'apparato. Ah ecco, sì. Allora, Pompù, cosa mi dici di bello? Niente, dimmi tu. Io ti ho scritto un rapporto. Niente di bello, la verità per il momento. Niente di più di quello che ho avuto. E tu, sei chiamato, ti sei a posto, come non lo so. No, sempre lo stesso, qualche giornatina mi è uscita, tra due giorni si finisce, non so fare niente, di nuovo la capo, almeno qualche spicciolo per andare avanti a dicembre, qualcosa a gennaio e basta, e poi di nuovo la ricerca, sempre nella solita minestra, non è cambiato assolutamente niente a dire la verità. Mi sta una seconda persona in ambulanza, se non vuoi sapere, è solo occasione. Quanto ho visto io? Questa notte, nella settimana scorsa stai dicendo, e che oggi è? Sì, ma scusami, sì, di questo venerdì, di questa settimana, non l'ho guardato la verità. Di questo venerdì? Domani la guardo per il numero di telefono. Dai, guarda che c'è solamente quello e qualcuno che vuole, ma la guarda, però non ti fidare mai. Perché quanto sembra un'impresa di Sally Bert, la verità. C'è scritto che vuole operare anche non qualificati, quindi è bruciatura, tutti i dini. Vabbè, uno prima di lavorare giustamente ci fa un piccolo corrupio, poi vedrai, no, come valutare la situazione. Io sei aggredito, fammi retta. Guardate l'ambulanza, forse l'ambulanza è meglio, con 118 meno 512 li guadagni, eppure il resto se la spiglia in culo lui e non mi pare qualificato, non sai che lui se lo dovessero trovarlo in facendo una villetta a quello che non gli danno con la vita, hai capito? Non ti paga mancate, quindi è a rischio, fregatene. Di quello già è vero, invece quando prendi in pizza in ambulanza, almeno quel poco che ti ha trovato, quello concordo, finalmente ha ragione. E appunto per quello che dice, ma fidati di quello che ti dico io. Quindi se tu vuoi telefonare a farmelo male, dici ascoltami mi dai subito, ogni settimana, se no io la prima settimana più ti denuncio, non ci sono problemi. Ho un pezzino, ma non ti denuncio subito. C'è un testimone qua. E voglio rischiare, proprio non ce ne stanno. Se non voglio rischiare, proprio sei in nero. non vuoi fottere, il discorso è quello, non me lo mai frega niente, c'è un lavoro, ce l'ho, ma parlare di così in chiaro, vedrai che le cose stanno così, invece purtroppo quando abbiamo bisogno di lavorare siamo ciechi, capito, in quel campo lì, facciamo quello che vedono loro, poi per il momento ci abbiamo dietro. Non so, bisogna fare sempre con la preoccupazione, c'è ragione, hai ragione. E tu invece, qualche cosa di positivo c'è per anche tu nella stessa minestra? No, qualcosa che l'ho fatto, la verità, è incazzato, quindi per Natale sto bene, la verità, per Natale sto bene. Ti faccio per un attimo un buon Natale, almeno quest'anno, una bella cena me la faccio. Non dico di attirarmi l'agnello, perché non mi sbatte tutto niente dall'agnello. Per me l'agnello non mi sbatte proprio nulla, mi piglio bistecche, mi piglio la sessione, mi faccio una bella cena a casa, per due giorni sono tranquillo, posso anche ubriacare per dire, però almeno me lo faccio al supermercato, lo faccio in altri posti, e sono a casa mia. Già va bene, allora poi se nel caso a Natale ti ha casato se un colpo di telefono, se un colpo di telefono, se voi dopo pranzo mi fa piacere veniamo a farti visita, un'oretta. Io mi faccio passare, già lo sai, non ci sono problemi per quello. Già sono qua. D'accordo, già ti chiamo prima, insomma che sei impegnato da un colpo di telefono. Non ho sentito più a Leoncino, che fine ha fatto? Era questa sera, sì, era questa sera. Ma ascolta, voi se c'è qualcuno, una lavatrice piuttosto, se la voglio togliere la balla l'acqua da casa, l'hai visto quella che c'è a casa mia? La voglio togliere dalle balle, se c'è qualcuno, la voglio attiva e se la porta via. Funzionate? Se qua a casa, secondo te cos'è? C'era uno senza funzionare. Funzionante, hai visto quello che c'è a casa mia, già l'hai vista quella lavatrice che c'è? Ehi, Edoardo, domani mattina sto chiedendo, e ti do la risposta, domani mattina chiedo. A chi serve se la porta via, che non ne faccio niente, mi porto su la nuova io. Non mi interessa avere sole, voglio aiutare qualcuno che ha bisogno. Se mi serve... Non so se non vuole prendere, faccia quello che vuole, non la frega proprio niente a me, batte la porta via, io mi porto la nuova su, lui si porta quella che c'è su, funzionante, già l'ho vista, la sto usando io, non è che mi sono una lavatrice digitale, ma mi sono una lavatrice analogica, grazie a Dio. Non ti preoccupare, già stanno sempre, funzionano più quelle, come dici tu, analogiche, durano molto di più. Scusiamo, no, bene, già va bene, domani mattina sto chiedendo e ti do la risposta, dai, non c'è problema. Avanti, io ti rubo, ti ho messo da parte. No, negativo, è che mi dà fastidio questa cosa, che non riesco a regolarlo bene. Che cosa, bracchino? Dai, già vai bene, purtroppo c'è il problema che c'è quel remero dell'acqua, o già... Anche io non riesco a regolare niente, quando mi faccio sul tipo di cosa mi ha a stanno di pronotore se addirittura, quindi non so se devo regolarlo, quindi fregatene, lascia perdere solo questa cosa che c'è, poi vedrai che si intervenite tutto quanto a posto e ti regoli di conseguenza. Adesso ti sento benissimo, grazie a Dio, senza problemi né niente, poco fa c'erano un sacco di disturbi, cose già, ti sento veramente bene. Perfetto, sintonizzato nel senso che non è a posto, invece poco fa tutto un casino era. È un casino perché c'è neve di qua, si vedono le pedate, così segni delle pedate della gente che passa. Poi vabbè, neve, il coso, quella grande, più che altro, non è che sia neve, la neve ce l'abbiamo noi qua vicino. Questo conto sono di altezza, lo sai, 500 metri sono di... tu sei 300, sì, qualcosa del genere. Io sono 500, la neve ce la sarà a Usino, qua non ce n'è neve, purtroppo, ancora. A meno che non ho passato il temperatura stanotte, o in mattina, quello che è, comunque... Si è fatta la temperatura e c'è neve e quel remo non abbiamo per niente domani. Nulla. sentiamo tutti bene, perché sempre ci è successo così. Oh, guarda adesso se cambia. Adesso vedi che sei tu, perché non c'è il problema della pioggia. Ah, ma adesso sai cosa ho fatto? Ho dimesso il 68 e ho collegato il lo ZG. Si va benissimo. Come lo senti tu, Gianni? Gianni? Ehi, approva a vedere, Antone. Ehi, già, ho cambiato l'apparato, ho rimesso il 68, prima col microfono originale, adesso col microfono da tavolo. Guarda un po'. Tutta una cosa diversa. Prova a vedere adesso il segnale com'è. Sì, sempre qua invece, guarda, nel Galaxy fa 9 più 10, 9 più 10, una bella radio di 5, qui è Santiago 9, radio 5 a bomba, bella, molto molto bella. Ma la radio adesso è normale? No, poi sinceramente mi entra nelle orecchie con questo. Ragazza, va bene, ma è saturo, no? Con questo apparato non ti sento assolutamente saturo. Se non ti guardi limpido, limpidissima, sembra che sia urlato da quanto è forte. Vaga, ma se va bene allora. Ma il segnale di prima quanto era? 9.30, te lo ricordi? No, no, tu rifavi qua, col mio, con la mia stazione sei 9 più 10 sempre, col Galaxy, sempre 9 più 10. Radio 5, bella, senza nessun difetto. Poi invece sei Santiago 9, radio 5, ma un 5 veramente pieno veramente. Ciao raga, va bene allora, sono contento. E allora è tutta questione di tempo, di giornata. Alla fine sì, vedi tu se ti stiamo correndo, vedi tu. Se tu dici il confuso sei un maestro, non sbaglio. Mi sono in correndo della pioggia. Non tanto, a me sta fischiando qua. E anche a me la stessa cosa, quindi fra poco nato il fulmine e siamo a posto. Già brucia. E ti volevo dire, Pupù, niente, apparati dubbi, non ti hai beccato? No, perché no, non mi ha fregato più niente a me. Io avuto parecchi, gli altri non ne ho dato uno, anzi, da poco, gli ho dato anche Gianni, a Giuseppe e a Guerra Samurai. Un bel baracchino, grazie a Dio, e quindi niente, gli ho regalato perché sono in tava, ho fatto un paio di favori e basta. A parecchi mesi, anzi non ho comprato per niente, non me ne frega proprio nulla, anzi se c'è parecchi per dire calare, il regalo, e se la piglia in culo, a me non ne frega proprio niente. A me bastano quei doppi apparecchi, se ciò basta, vantano, non ne spendo più sopra le barchino, mi interessa soldi per mangiare, soldi per divertirmi, e sono più tranquillo. Mi può fare la baracchina, la giuntiare, a comprare 50 apparecchi, quando non usi manco uno, quindi a un certo punto mi metto così e sono tranquillo. E gli attori della curiosità, chi ha perfino il beccato? Chi ha parecchio beccato? Per Leoncino, cosa gli hai tutto procurato? Un galaxy tutto, infatti che sarebbe il cugino del samurai, vabbè, infatti che il galaxy tutto è come avere il Saturnetto in casa sua, tale quale. Perché i finali sono quasi precisi. Uno è un po' di 34 e l'altro un po' di 15. Diciamo la grandezza come quello che sono io o come i tipici Midland, quella forma lì hanno? No, oh, ti guardi dei Midland, è una parecchia di macchina questo. Se ti guardi di Samurai, per dire, Samurai monta i finali L12-12, invece tutto monta quello più grosso perché c'è tre finali, capito? Non ne ha due, ne ha solamente tre in trasmissione, quindi cambia la cosa. È molto superiore, diciamo. Nero sono quasi uguali, insomma, cioè, le macchine sono precise. Cambia solo la questione dei tratti che c'era avanti, la verità. Beh, già va bene, no, già sono contento. Solo che la verità sono un po' senza sentirlo, come mai non sta più bene di modulare? No, non è che sentano per parte, per esempio. Mi hanno detto che la porta era mia, 10 minuti fa. Noi riuscivamo a sentire un ricevitore cagato, perché è un casino quel ricevitore. Fa solamente francese, inglese, e non dà le frequenze, anche se sono importanti. La calcolo H2, G, e mi manca la S, quindi non la userei uno. Infatti la rete 4 non c'è niente da fare. E quindi c'è da comprare con braccio un ricevitore nuovo, potente 30-40 euro, perché per la RAI proprio sono questi, capito? E già va bene, avanti dubbio. Oggi se ti sento un po' fiacco così, il fischio. Gianni! Ma sparito, c'è secondo solo la questa o l'altra col Galaxy? E già va bene questa, avanti già, cosa stavo dicendo? Sparito, chi che voleva entrare, no? Il sparito. Intanto entra uno, poi sparisce. Senti, veramente stanno comprando qualcosa. Dimmi. Un attimino che mi sta chiamando Patrizia Pompo. D'accordo. Non c'è problema là. Dove l'oggi? Fuggi di 7. Cambio. Una volta che lo spegni, perché poi riaccende e dura bene? non lo so, considerando che Alessio che ti ha detto questa cosa, chiedo a lui, no? Alessio? Scarica ma quello, mi sto male. È bella come l'ha detto lui, questa fesseria, non l'ho detto io. Quindi, secondo, come penso io, che sono un tecnico, potrebbe essere due cose. Siccome c'ha la doppia polarità, quindi c'ha neutro e positivo, quindi due tre cose, due lamelle, come succede anche nei pulsanti di casa, quando c'è accendi e spegni per fare la commutata, potrebbe darsi che in pratica la molla che c'è dentro, tra una lamella e l'altra, e si trova l'ossino e non ce la fa condurre e quindi non ti passa la corrente, il discorso è questo. Come sono invece io, la penso così, è come avere una commutata di due lampade in un salone, che tu fai la commutata, accendi la parte e spegni l'altra, accendi la parte e spegni l'altra. A un certo punto poi, siccome c'è la regola, accendi prima accendente, perché se incendia quel pulsante che si forma l'ossido, inutile che accendi e spegni perché non c'è proprio niente. Si forma l'ossido e quindi non funziona più, il discorso è quello. Però è identica cosa del quel pulsante, precisa identica. Sì, Ale, ma questo qui lo fa dal primo giorno che l'ho comprato, non è questo che ci ha formato lucido dopo un po' di tempo, è questione che da quando l'ho comprato è così, chi dà ragione? Ecco, allora spiegami tu, da quel giorno che tu dici si è formato quel difetto lì, anzi tu sei fortunato, dimmi Antonio, cosa dovrebbe dire Antonio secondo te, a parlarci del incendiato finale, spiegamelo tu, hai preso un Proxel, quindi l'hai pagato poco, per dire, la questione, sai cos'è più che altro? È una questione di, non di struttura, di costruzione in pratica, di quello che ha fatto la, come ti posso spiegare io ora? Quindi in pratica ha sbagliato i calcoli, perché non è possibile che l'alimentatore nuovo, dopo un po' si incendia, e si incendiano i finali perché scaldano troppo. Quindi non è piaciuta la commedia, almeno con Antonio, con te, per dire, quello che l'ha costruito devi, purtroppo è così. L'ingegnere elettronico. Ha tornato in corso i calcoli e quindi automaticamente, come detto, i finali si incendiano, non vedo dove va, oppure il pulsante, il discorso è quello. Guarda, mi rispondo o mi rispondo in mano? Avete parlato in due. Sovradimensionati o sottodimensionati i prefinali e sovradimensionati gli accumulatori. Allora, Alessio, tu devi capire, tu mi hai detto sei fortunato, il primo che ho preso, come sono attaccato, l'ha fatto pum! E non ha più accesso, è uno, ne avevamo dato indietro, me ne avevamo dato un altro ed era difettoso. Poi uno addirittura me l'hanno perso dalle poste, è stato mesi e mesi in giro sino a quando poi mi è rientrato a casa, però mia moglie che si è impegnata, che ha chiesto a un amico che lavora alle poste come vice direttore e cose, e quindi gira qua, gira là, siamo riusciti a rintracciarlo, perché se no alle poste dove l'avevo spedito non avevano un caffazzuffo, niente. E tu chi vuole Antonio? L'ha spedito, gli ha mandato indietro, gli hanno sistemato l'alimentatore, gli hanno dato i finali già usati, figurati tu, già usati. Quindi cosa ti aspetti tu da finali già usati? Quindi la presa pellicola è questa, il discorso è quello lì. La marca Proxel per gli alimentatori è un cesso, non c'è niente da fare, magari il microfono sa quello che è, però è un cesso, si deve aspettare di tutto, se tu togli una palicatura, purtroppo l'ho fatta così e lasciata così, il discorso è quello. Soprattutto cose che sono ovvie, o già se ci arrivi anche tu, se tu ti togli una cosa che costa poco, è logico che non ti puoi aspettare che sia cose tipo sollievo, al 100% che ha la resa di 5-6 anni, è quello che è, questo è come la penso io, però insomma, mi sto anche sbagliando. Antonio, perché gli hanno fornito questi finali qua, di riserva? Vuol dire qualche cosa c'è, secondo te? Se un pezzetto ci arriva, vuol dire che il tipo dello schema che è stato costruito da quell'ingegnere è difettoso e non c'è niente da fare, a meno che non mi faccia un'altra verifica. Il discorso è questo. Loro cosa hanno fatto? Hanno preso, hanno costruito, se va bene va bene, se non va bene se la piglia in culo, diceva quello. Ma come che io voglio pensare per dire 50 ampere, 40 ampere, quelli che sono, mica sei d'accordo, mica la più di quello. Se tu superi quel tipo di operaggio, tu mentire, il discorso è questo, perché è stato costruito male, il discorso è quello lì, e tu la penso io, poi non lo so, ma noi sto anche sbagliando io la penso come tecnico, me. Anche Gianni, magari mi sto anche sbagliando, però mi sembra strano una cosa del genere. Se portano una cosa del genere, ripeti che c'hanno, qualcosa c'è di strano, perché non è possibile. I microfoni non dipende da dove ci sono, sono fatti bene fino a un certo punto, ma perché sono fatti nella catolicale? Se tu non lo sono giù, se la bianco diceva quello. Ora, ti voglio rispondere alla tua cosa. Io non sono d'accordo con te perché io c'ho un Nissi che ho pagato 90 euro, ce l'ho 8 anni, non mi ha mai dato problemi, mi tocco ma non mi ha mai dato problemi, è un buon alimentatore, c'ha gli strumenti grandi illuminati, tutto quanto, è inferiore come amperaggio, però va benissimo, non mi ha mai dato problemi. Questo l'ho pagato 135 euro, non l'ho pagato una cazzata, 135 euro per lavorare, lavoro una giornata e mezzo, per cui non è una cazzata. Niente, il fatto è che c'è il difetto di fabbrica, loro lo sanno, perché il primo che mi sono lamentato sono stato io, gliel'ho detto, me l'hanno riscritto due o tre volte, capito? Penso che ne abbiano sempre spirito stesso, oppure sono tutti difettosi così tutta la partita. Io avevo detto che erano difettosi di scappare qui, perché per non far sbagliare un'altra persona, visto che avevo sbagliato io, la fregatura l'ho presa io per non farla prendere un altro, allora l'ho detto che praticamente erano difettosi. Aspetta un attimo. Allora, a parte che uno non fa statistica, bisogna comunque avere il riferimento di un falce, di una decina minimo di apparati difettosi o di apparecchi difettosi. Dopodiché vi ho già detto che la Proxel non è una fabbrica, ma è esclusivamente distributrice, perché lo stesso alimentatore esce con marca diversa, uguale, identico, adesso non mi ricordo, con una sigla e con una marca diversa, e sicuramente è una cagata anche quello. Quell'alimentatore lì, la Proxel, l'ha comprato in stock dalla Cina, ne avrà comprato tipo 1000 pezzi, si è resa conto che comunque fanno cagare e ha continuato a venderli fregandosene altamente. Loro fanno solamente ti danno solamente la garanzia che se li rispedisci te li manutenzionano, e cioè ti cambiano i finali e poi te li rispediscono indietro, però non l'ha progettato uno della Proxel, non è un prodotto Proxel, né tantomeno come questi microfoni qua. Quindi non è così, perché ci sono alimentatori Proxel che funzionano benissimo, che però hanno magari 30 ampere. Ti ho capito, cosa vuoi dire, altro? Ti ho capito. Comunque il fatto sta che il rapidanco non lo vede in culo, il discorso è quello. Proxel o Proxel, da come la penso io. Io mi auguro solo che la Proxel faccia, per dire, qualcosa di buono che sistema le cose, pensate, non puoi tu inserire un microfono, un alimentatore che poi ti, cioè se dura un mese e poi devi spedirlo indietro, non esiste, perché sotto garanzia è così, ci lo metterebbe come, anche come, cioè come induta, non produttrice, perché non è produttrice, diciamo esportazione, perché è fatta dalla Cina. Quello che sto dicendo, proprio come sta dicendo già ci sono tante marche, la verità, comunque ti posso dire una cosa già, è meglio la roba antica che la roba nuova, per come la penso degli alimentatori, a me gli alimentatori, quelli a switching, la verità sono contrario, ci sono gli apparecchi, cioè gli alimentatori buoni sono gli alimentatori cattivi, magari, non lo so, sono costretti male, come è successo con Antonio, perché è sfortunato, la verità, tu sei stato fortunato, già la verità, tu sei stato sfortunato per fare due volte, la stessa cosa, e non è possibile, ma tu ci pensi che lo spendi 100 euro, o lo guardi, quindi per forza dire, un montatore si trova incasinato per le... per quelle connellate di, non so, di costruzione. Mettiti nella testa di Antonio, perché non è possibile. Sono subito spesi male, la verità. Per dire, se aggiungeva qualcosa in più, se ne aveva voglia, o se ne ha voglia anche lui, abbiamo avuto un bel alimentatore, per dire, con 200 euro, un bel 30-40 ampere. Si è tirato tutto, sta sulla torre, fondi di lino, di 4 finali, 2,55, quelli che sono 5, quelli che sono, non hai avuto un bel alimentatore, senza essere un po' switching, il discorso è quello, è come la penso io, non lo so, ma mi sono sbagliato, altro cosa dimmi, quello che vuoi tu, io non ti sto, non ti sto facendo queste imbecille, tu hai fatto quella scelta per aver visto su internet, è logico che la pubblicità... che vende a comprare, non è sbagliato la verità, però per le conseguenze del genere, cioè se va vicinare, la verità io sto parlando di tutte la verità, per cosa penso io. No, guarda, adesso io non so come recuperarli questi soldi, cioè sono soldi investiti male, soldi che quando li rivedo, se li rivedo, soprattutto adesso come faccio a alimentare i miei baracchini? È una cosa che mi rattrista davvero, poi sotto Natale queste cose non è venuto, cioè, boh. Quello che ti ho spiegato, fino a due minuti fa, il discorso è questo. Pensate che fanno un investimento, e su questo alimentatore qui che ti dà, magari ti dà 50 euro, che ti dà 80-90 ampere, che magari lo compra un coglione per dire io, che sono un coglione, lo compro io e a me funziona bene. Dopo questo alimentatore, per dire che ne uniamo di uno, due, io lo compro anche tu, e con la gente, e a te ti va male, dammi fastidio, perché dammi di fastidio, è questione di costruzione da loro, non lo so cosa hanno combinato, la verità, non lo so, però la fastidio è un bel fastidio, perché non è possibile, una fabbrica, cioè, per dire che prende roba dalla Cina, la riproduce, e poi che uno stock di 10 va bene, uno stock di 10 va male, la fastidio, veramente fastidio, sono soldi spesi male, per come la penso io. E allora non è capito, il primo che mi hanno mandato a me, uguale a questo che ho, che mi è partito, come l'ho attaccato, e mi ha detto che c'è un impianto sballato io, e ho detto male che io ne ho altri 5 alla ciabatta attaccati di alimentatori, non uno. E ti ho capito, il discorso è quello. Allora, ricordo che sembra una cosa già. È come gli apparecchi, per dire, ci sono gli apparecchi che adesso si addormentano, che vengono i primi usciti e fanno schifo, perché fanno schifo. La seconda serie che sono modificati per i difetti che c'hanno, perché proprio gli orecchi difetti, quindi allora fanno le modifiche, capito il discorso com'è? Invece questo caso, quello che è stato lì che ha preso Antonio, non so dove è niente, perché non dice che loro, non è fregato proprio un cazzo, capito? Se io dico, il telefono va, l'alimentatore mi ha fatto così, dopo 5 giorni mi si è bruciato, poi finale non vanno bene, scavano troppo e sono chiusi. E cosa mi frega allora? È da cinese, hai capito il discorso? Già, non è forte proprio niente. Loro fanno solamente roba così e basta, se va bene va bene, se va bene, come diciamo International, che se dico di pari tempo fa, l'ultimo di uno, l'ultimo di due, l'ultimo di tre, l'hanno fatto per dire 100, 200 pezzi, 300 pezzi, quello che sono, hanno venduti, hanno chiuso la fabbrica e c'è la notte, e chi se ne frega, il discorso è quello, hanno fatto una cosa a bruciatura. Lo so, ma erano degli apparati qui. Vabbè, comunque niente, secondo me la ditta Tecnocomunicazioni che sono molto, molto poco seri, mi sembrava più seria come ditta, invece mi sono reso conto che si è diventato cane anno. anche perché abbiamo scritto un apparecchio che dopo un paio di mesi è andato male ed era un apparecchio che costa, comprato lì, difettoso, se ne andava fuori frequenza e cosa, e l'abbiamo spedito, non gli hanno mai cavato più, siamo tutto 6 mesi senza farle niente. Dopodiché l'hanno preso qua la sassa in mano e l'hanno aggiustato, capito? E comunque, Ale, ci credi che non ci sto dormendo la notte? Mi dà così fastidio, guarda, non riesco a dormirci la notte. Tanto ti capisco, mica io ti capisco bene. Perché così, le robe comprate così, a questo punto, purtroppo ti capita così. Perché tu compri una pellicola ogni luncio, a fatta di che sia un bel alimentatore, ma non un vecchio, se ti dia 25 euro, come ho fatto io sono andato alla Inse, a cosa mi dà il giorno di base, comprando un bel alimentatore, 25-30 ampere, per un tempo, dove l'ho dato io a Mario Manser, e l'ho pagato allora 200 euro, cioè, non 200, 200 mila euro l'ho pagato, la verità. Poi si è durato 20 anni di durato, si è bruciato 4-5 anni fa, si è bruciato, si è comprato 4 finali ed era come nuovo, ha speso 15 euro, se non 15 euro, lo tappato, non c'aveva niente, ha bruciato non solo quel creato il cortocircuito, e basta, ha bruciato di 2,55, perché è così. Mi ha istituito a Davide, anzi chiamato addirittura Davide a Franco, quello che fa computer, gli ha detto, mi chiedono c'è niente da fare, dice no, di questa alimentatore non si può fare più niente, ha detto lui, davanti a me. E tu guarda, ha detto, dalla a me. L'ho guardato, gli ho cambiato i finali, è tornato come nuovo, gli ho istituito a Davide e a Mario, e Mario veramente ha speso, mi sembra 20 euro sono spese. Ricordo una cosa, la roba vecchia è molto meno della nuova, questa questione di squicci non va più bene, tanto come la penso io, poi non so, vedi tu, vedi un tipico orientatore, ti dico io da 20 ampere, quello che è della Intex, da Relazzi, quello che è, costerà per dire 150 euro o 120 euro, ma almeno sei tranquillo, se spendi solo nei finali, nel 35-5 oppure nel tuo periodo, ma non ci sarà più altra cosa, spendi molto molto poco, e come la penso io, poi non lo so, devi essere tu a gestire la cosa, però io non lo so, i soldi sono i tuoi, non sono i miei, mi sono entrato io nel tempo, non so quanti anni c'è quello del 44, c'erano più di 30 anni c'erano, e sta sempre andando, semplicemente mi sembra due volte i condensatori e i ponti di Rio, la verità, non si è bruciato altro, il barattino non si è mai bruciato, solo quello si è bruciato, speso anche poco, quindi tu. Ma il problema è che adesso vai e trova i soldi per comprarne un altro, capito? Ora io ti do ragione, ti do pienamente ragione che quelli col trasformatore all'interno sono migliori, ma pesano tre volte di più, e poi sono un bel gombranti, li fanno un bel grande, è quello che c'è, perché sennò sarebbe stato mio con la ragazza. Io voglio che ne ho uno di quelli a trasformatori, è un 10 ampere, ma li dà tutti in pieno 10 ampere, non si ne guarda di nulla, e ti dirò che è un apparecchio che io ho circa 8-9 anni e è sempre andato bene. Lo so, guarda che non c'è procedere dall'index, ma non so cosa vuole porre, la verità, perché tu sei sentito c'è un 2 ampere nella Intex. Io quello che ho regalato io tanti anni fa a Mario Massa per il Kenwood, la verità, te lo ricordi, era 25-30 ampere, era addirittura, era bello grosso, pesava 4-5 kg, però era, non ha mai avuto nulla fino a 15-20 anni, la verità, perché l'ha portato, mi sembra, 3-4 anni fa a sistemare, non di più, non l'ha portato, l'ha fatto un corto circuito, non mi dicono cosa, hanno bruciato i finali, 4 finali che costano 5 euro ciascuno, cosa vuol dire, Antonio, neanche 5 euro ciascuno, i 2,55, solo quello non ho bruciato altro, e poi i miei, boh, ma non ho bruciato altro, Sì, che sono trovato quello che è. Ma è un bijou, non hai avuto proprio niente, niente, solo niente. Come quello che c'è, quale uguale? Sono migliori questi qua. Gli avete dato i vecchi, sono molto migliori, come dire. La nuova cosa è tornata al passato, perché è molto molto meglio, per come la penso io, o non lo so. Vabbè, non so. Insomma, io mi ricordo in avevo la 53 della ZG, che era un barrageò, e lo dovevo mettere in terra per forza, perché era un bel grande e pesante. E finalmente d'accordo con te, discorso, però, mi ricordo che c'è Antonio. Due volte l'ha preso, l'ha usato due giorni a letto, poi l'ha riparato, anzi l'ha fatto riparare, anzi l'ha proprio riparato, non solo l'altro, perché l'ha spedito, l'ha spedito l'antitransito, non so se sono bruciate la verità oppure no, perché non lo so. Io per piazzati non c'è niente da fare, non è stato addirittura il portiglione nuovo, non è venuto qua, non accende, basta. Io non lo so la verità, cosa fare di quella diventata, per me sono soldi spesi per niente, per cosa penso io. Ma io dal momento che l'aveva spedito, glielo dovevano aggiustare loro lì, secondo me... E questa storia che gli hanno spedito i pezzi e tutto quanto non lo trovo giusto. Avrei trovato giusto se le avessero aggiustato o le mandato che funzionava. Non forse non hai capito. Li ha aggiustato. E gli hanno dato i pezzi in riserva. Quindi sapevo anche che doveva partire da un mondo all'altro. Il discorso è questo. Se io ti aggiusto una cosa, non ti do i pezzi di ricambio. Hai capito già? Quindi vuol dire che? Ti ho dato il culo, sai già che questa cosa dura una settimana, quindi la metà non è stata calcata, il discorso è questo, perché gli hanno dato i pezzi di riserva, ma ce la fai, cazzo, non ce l'ho fatta, io credo, questa per dire, cosa per dire, cosa posso dire, ti do un cable, ti faccio riparare l'apparecchio, mi metti i finali nuovi, e mi spedisci altri quattro finali, cosa fai? Cioè a un certo punto fa 15-20 giorni, se ti va bene ti parto, se non ti va bene sei tranquillo, giusto? E loro sono tranquilli, trovano sono tranquilli, invece in questo caso qui è successo quello che è successo, perché è durato qui anche 15 giorni nemmeno, mi sembra, da quanto ho capito io, quindi il discorso è quello lì. Lo sapevano loro che erano difettosi. Ma sono seri anche col consiglio di chi li vende, perché sennò che sono difettosi, rispedisci tutta la partizione e ti fanno una risoluzione. Perché devi fregare il cliente che tu lo perdi, punto interrogativo? Allora, perché io metto perché gli spedisci due condensatori, c'erano grossi, quattro finali, perché sono quattro finali, due condensatori piccoli marrone, e pezzi, secondo te uno che non sono... Come Gesù Cristo diceva, guarda che se per caso affondi a posto del coso ti do anche un intelligente per i tuoi figli, per dire. Se muori, muori tutti quanti assieme, per dire, se c'è un alluvione, no, non è che ti do un pezzo di legno, ma ti agganci e ti salvi con i tuoi figli, non esiste questo. Quindi sapevo già che loro l'hanno preso con il discorso e quello lì. Per come la penso io, però non lo so. Ma non mi sono sbagliato. Però per come la penso io. Io ti dico una cosa, se noi ci arriva la pasta che ha gli animaletti, la ritiriamo tutta quanto ai negozi, la rispediamo a chi ce l'ha mandata e ci ritornano i soldi. È normale, no? Cioè se tu ti rendi conto che un prodotto non va bene, non lo vendi, lo ritiri e basta. E lo rispedisce alla casa madre, punto. Così dovranno fare loro. Sì, ma io, cioè non io, Antonio, mi ha spinto che anche lui funzionava, perché è vero quello. Mi ha spinto quattro finali, due condensatori, manuali, due condensatori critici e insomma se non mi ricordo male, la verità se non mi ricordo male, mi potrà correggere lui, ma è proprio saltato, quindi faremo già e anche una piazza, mi sembra, nuova, una piazza nuova, cioè una scheda nuova, piccola pittura, di quelle piccoline. Gli hanno dato di quel circuito, quindi sapevano già che qualcosa c'era sotto, perché non è possibile. Le cose così, io non provo con Antonio, la verità, perché Antonio Coraccio i soldi li ha spesi, vorrei sapere da lui che ha detto queste. Io provo con Antonio, la colpa trovano solamente a chi prende su internet, perché l'aveva chiuso il sito, basta. Aveva fatto il coso, boh, chiuso, non prende più il microfono, non prende più niente e basta. Poi sento chiuso, boh. E invece è bello, non ho capito. Tanto per fortuna della gente. Ma non devo più dare il sistema negativo. Perché ho comprato direttamente da dove che hai comprato? Tu, lo stesso negozio. Quindi cosa gli do negativo? Non è una cosa eBay. No, un negozio eBay quello lì. Comprato dal negozio B. Comunque, Ali, è inutile stare qui a parlarne, tanto loro stanno facendo quello che vogliono, continuano a prendere, sono dei ruffiani, lo sanno già che l'hanno fregato a me, anzi io sono stato appunto più fortunato, perché anche se a me mi si spegne una volta, poi la seconda accende, almeno funziona, lo sto usando adesso per dire. Sì, vabbè, non è giusto comunque, perché non la penso, non è giusto assolutamente. Ci sono delle persone così, no, è assolutamente giusto, la verità, molto ecco una cosa del genere, cioè in cui è uno, in cui è l'altro, perché in cui 100 persone, poi 100 persone vengono da te in fabbrica, e cosa gli puoi dire secondo te? A fronte viaggio. Prendo le madri, io vedo così dico, perché voi l'avete comprato, capito? Sapevate che l'ho comprato a poco prezzo, il discorso è quello. Non se ne fottono lì, ho già, il discorso è quello lì. Non mi dispiace per Antonio, la verità, perché mi dispiace un bel. Vabbè. Sto andando a mangiare, ci sentiamo dopo. La radio com'è? Normale? Come la senti? E stacchi la bocca dal microfono perché sembra che ce l'hai troppo vicino. Cappa, guarda adesso, guarda, 1-2-3, 1-2-3. Via di mezzo? Ora. Vabbè, va bene. Va. Ma questo sei interessato dalle 1:05, che parola? Non è possibile. Cappa, adesso sto guardando su internet, alimentatori stabilizzati alla ZG. Lasciate quelli, via quelli della Intec, guarda. E basta, Intec, 25-30 ampere, quanto vengono? Se guarda, aspetta. Faccio aprire anche a me, che mi interessa. Ok, là, vado a mangiare e poi magari ci sentiamo dopo là. Ok, va bene, comunque Intec sono i migliori. 12 ampere, 76 c'è. Siete d'accordo con Tore, quanto lo ritiri? Il cambiare alimentatore, molto bello, c'ha due strumenti, la verità, è uno, il 10-12 in pratica, monta 4 finali, 4-2, mi sembra sono 155, quindi, figura di tu. L'alimentatore è veramente buono, se tu non l'ha, poi si tratta io, quello che è, ci hai fatto veramente un affare. Poi non lo so, dipende da lui, ma io avevo anche 50 euro, le 12 ampere fondi, no, così, fondi sono, perché ZG non serve proprio un cazzo, l'ho avuto io per il Kimbo, non serve proprio niente, invece la Intec è perfetto, 12 ampere sono 12 ampere sono anche di là, non potrei salire per dire a 100 watt, però almeno 7 watt e poi usare con Kimbo. Ok. Adesso vedo se lo trovo uno, dai. Allora che non c'è il creato modello, quello che ho usato io della Intec che per Mario Lance. Quello sì che è una bomba per l'alimentatore, ci sono 6, 255 belli tosti, che è proprio una bellezza. pilota. Non si è mai bruciato, anzi questa è la seconda volta, però non conta, basta. E ha speso 12 euro. Non ho bruciato nulla, né il finale, cioè nel metro finale niente. Solo il finale bruciato. E ha speso, mi sembra 12 euro la verità. In coso, in transistor. Non mi guarda un po' quanto la meretta. Quindi anche un bel Inter che sia 25 ampere, 25-30 ampere, bello grosso. Due strumenti, quello che è, questo lato 150 euro, quello che è, lo prendilo, che è molto meglio di questo accesso. A me c'è soddisfazione. Dammi retta, se ti porto come la mano, ma te lo faccio vedere, l'ho comprato io, a mano, ma se l'ho regalato io, e non avrei avuto problemi con quell'ammiratore. 20-25, che da 23 ampere. Pesa, della Inter, che sì. Vedi che quello che ha due strumenti è veramente bello. Se io te lo faccio vedere, ti porto con me, anche la mattina, te lo faccio vedere a casa sua. Ma è veramente, dà un sacco di soddisfazione, lo sto dicendo. La mano è finita di romperti con le balle con questo cazzo di squeaking, di bertola, che non servono assolutamente a niente. Adesso guardo se trovo qualcosa che abbia almeno 30 ampere. Controlla. Zio. Dimmi. Se ce n'è uno da 23 ampere e gli ho fatto la proposta a 45 euro. Non ti va bene, anche poco addirittura. Ma strumenti, Nel senso non ha strumenti di misurazione. Quanto per? Capito. Quanti ampere ho detto? Cos'è transistorizzato? Com'è? Switching? Quant'è? Tipo switching, è alimentatore vecchio tipo, vecchio modello, 23 ampere. Ma che ti va bene già, te li chiamo una verità, esagerato. Mi sta piovendo bene, visto che mi sta piovendo parecchio adesso, ho detto. Se ne casino, vabbè. Dammi un momento adesso. Ci sei? Adesso ci siamo. Il cuore mi è diminuito. Ora. Ce n'è un altro. Ma di dove lo attiviamo un po'? Fattore lineare 30 ampere per il paese. E quant'è? Anche questo è switch, adesso devo vedere. Non vedo niente. Trasformatore. L'alimentare è 30 server, 30 ampere massimo. Che voi siete là, il discorso è quello. Dice. E questo c'è anche la possibilità di regolare. Da 5 a 15 volte. E se ne fotte di quella? E poi ti dice 30 ampere, diceva quello. Io ce l'ho il mio 80 ampere, come si deve. Ma non lo per 200 euro io, perché il mio è come si deve, me l'ha inventato il stabilizzato, per il tempo e ti riporto tranquillo, la petta si ricca. E me l'ho vecchio, ma si è mai bruciato niente, cioè qualcosa si è bruciato con dei saltori, perché c'ha più di 20 anni, perché è più di 20 anni che lo sto usando. Però accendere il meditatore e dopo 10 minuti di saltare il transito non esiste, altro, capito, il discorso è quello. Come si dice a te? Tutto per l'alba così, che costa poco prezzo, 40-50 euro, 50 ampere, 40 ampere, cosa che è? C'è sempre la fottitura, il discorso è quello lì. Se non ti trovi qui 5 del cazzo, non servono a niente. Meglio un modello vecchio che avere un modello nuovo, la verità. Così ci sono tra Claudio, perché anche Claudio si è cacchiato così la verità. Ha comprato la verità e dopo me l'ha trovare, non subito, dopo un po' di tempo l'ha trovare. Quindi se poi, cioè, come ti posso dire, non puoi usare una cosa del genere, non ti puoi fidare. Io poi se ne sto guardando un altro. Tu hai messo 25 ampere e sei a posto. Perché? Non c'è bisogno di altro. L'alimentatore 30 ampere lineare a trasformatore. Questo da 30 ampere, però qua dice 30 ampere, poi alla fine sono 20 continui, capito? Quindi la ricicco 30 e costa 139 e 11 di spedizione. Scusati, ma a te cosa ti serve? Un elettrocampio del chilometro cosa ti serve? Un po' così, per giocare. Tu cosa ti serve? Se per laboratorio va bene un regolabile per dire, poche ampere, quello che è forte, ma anche il chilometro. È meglio che tu mi dico che un elettrocampio è suo, come se non è che ti dia il vantaggio giusto. Il discorso è quello, Aldo. No, scusa, il ricappa di quanto ha bisogno per essere alimentato bene. Il mio è 20 ampere, io ho 25-30, dipende dalla panica che io ho il 680, se tu c'hai l'altro modello non ti va bene 30 ampere, 30-35, e sei tranquillo, e se non ti va pure. C'è le scariche anche tu? Ce ne ho, anche adesso. Messa in basso e lo sono alla bocca.